24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. È matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Eh sì. Se n'è andato Little Tony, l'Elvis Presley italiano. Convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Vincino, buongiorno, te lo ricordi Cuore Matto? Assolutamente, era grandissimo, poi aveva un merito enorme, non voleva fare il profeta. Se n'è andato. Quante volte l'hai ballato vicino Little Tony? No? Insomma, si ballava. Si ballava. Va bene. Aveva il ritmo il ragazzo. Aveva il ritmo, sì. Grande Little Tony, Antonio Ciacci, nato a Tivoli, 9 febbraio 41. Ieri è scomparso. Tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Vabbè, un altro grande della musica che se ne va. Perderai, allora, questo è 24 mattino. Buongiorno. Abbiamo voluto iniziare così. Saluto a tutti. Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vincino l'abbiamo già salutato. Il nostro Parlamento può aprire. Tra poco saluto anche l'altro ospite. C'è sempre Nicole Minetti. Quanto fa incazzare questa cosa, qualcuno che c'è sempre di Colminetti che ci offre il caffè. Trovate qualcun altro che ci offra il caffè e noi lo sostituiamo. A me fino a questo momento sta bene così. E, insieme a Vincino, con direttore del male. Vincino, ti presento Matteo Salvini della Lega. Ci siamo già visti per radio, come dire. Sì, vi siete già visti per radio. Salvini, buongiorno. Buongiorno. Salvini è più giovane come me, il Cuore Matto l'ha ballato poco, mi sa. No, ma preferivo Riderà. Riderà. Poi magari la recuperiamo anche Riderà. In onore la dedichiamo a Matteo Salvini. E Matteo Salvini, tra l'altro, che è successo? Manco a Treviso avete vinto. Un disastro, No, subito, ecco. Fine primo tempo, 1-1. A Treviso si vince, si può vincere a Treviso, si può vincere a Brescia e si può vincere anche a Lodi. Con i 10 comuni che abbiamo preso in Lombardia al primo colpo, con i 10 sindaci, sarebbe un risultato positivo. Insomma, ecco, Vincino, hai visto, non si perde mai in politica. C'è un paesino sempre dove si è vinto alla grande da soli, questo... Anche De Vito era contento, eh? Sì, De Vito è il candidato. Rispetto al 2008, quando c'era la lista Amici di Grillo che ha preso il 2,5, abbiamo fatto un grande successo. Salvini, dov'è la roccaforte che adesso eleverete come a simbolo della Lega trionfatrice ieri? Dov'è che avete vinto? Alcuni comuni dove abbiamo litigato li abbiamo persi ed è giusto così, e dopo 5 anni di sana e robusta opposizione magari rivinciamo. Comunque vi lascio sul piatto e vediamo se mi indovinate la provincia. Il comune di Agnosine, dove abbiamo... Agnosine, aiutami Vincino. Aspetta, Google, Agnosine, Google, aspetta. Basilicata. Ma che sì. Qualche ascoltatore sicuramente magari a Milano ci mette un po', però si arrabbia. Agnosine, no, sto twittando. Agnosine, Brescia. Bravo. C'ho il computer davanti, Sono proprio Agnosine piuttosto che Castelcovati, dove abbiamo vinto molto bene. Travagliato, lei dovrebbe saperlo, al volo dov'è Travagliato. Per motivi calcistici. Travagliato è il paese di Franco Baresi. Eccoli. Allora Brescia anche questo. Agnosine, Vincino, ripeti, Gnusen in dialetto. Gnusen. 280 abitanti, no? Agnosine, allora vediamo Wikipedia. Agnosine ne farà 2000, Travagliato 12-13 mila più o meno, no? Aspetta, beh, alle porte di Milano dove c'è il carcere. Sì, sì. Agnosine 1822 abitanti, Vincino. Lì trionfa. Sindaco Bontempi, salutate il sindaco Bontempi. Salutiamo il sindaco Bontempi. Salutiamo il sindaco Bontempi. Gli astenuti hanno perso, mannaggia. Sì, sì, sì. Bontempi è stato eletto trionfalmente sindaco di Agnosen. Agnosen, sì, Agnosen ci sarà sui cartelli, ma c'è scritto Agnosen perché cultura generale, dai, va. Comune della comunità montana della Val Sabbia, Vincino, Agnosine sempre. Stiamo parlando di cose complicate proprio, cioè, allora, facciamo una cosa più semplice. Oh, romani, dovevate eleggere il sindaco? Che fate, vi siete rotti i coglioni? Questa è la verità. Se la prendono calma. Sì, se la prendono calma, c'è sempre il ballottaggio. Vincino, perché non la gente non è andata a votare? O meglio, è andata a votare meno? Perché, come dire, erano quasi tutti terribili questi candidati qua, non ce n'era uno decente, no. Al di là del fatto che, come dire, io in primo momento dicevo tutti meno Alemanno, no? Andavano bene tutti per via delle strade, tutto, insomma, no? Il sindaco peggiore degli ultimi milioni di anni. Però quasi quasi c'è il rimpianto di Veltroni, guarda, ti giuro. Il rimpianto di Veltroni. Ma sì, perché... Ma non è in Africa Veltroni? Ah no, non è in Africa. No, non è mai andato da nessuna parte, è rimasto qua a fare libri, fa libri senza anima, questo è un disastro. Com'è il libro l'ultimo, e se domani? L'ha letto Salvini l'ultimo, e se domani? No. Che cosa? L'ultimo di Veltroni. È un libro. Non me l'hanno inspiegabilmente mai regalato. Ah, ecco, bisogna andare a comprarlo in libreria. Comunque, per Matteo Salvini, in onore di Matteo Salvini, visto che la Lega vincerà, ha detto può vincere a Treviso, a Lodi e a Brescia, allora dopo lunedì prossimo Little Tony, insomma, canterebbe questa. Salvini può anche cantare se vuole. Riderà. Avanti. Farla ridere perché... Vabbè, basta. Riderà, riderà. E vabbè, la Lega riderà, Vincino. E qua... Vabbè. Allora... Avete perso a Calolzio Corte, invece. Avete perso a Calolzio Corte, Lecco? Sì, sì, sì, lì mi spiace. Mi spiace, ma siamo andati divisi e quindi era un problema. Ah, Vincino, la lettura dell'Italia attraverso... Ma Calolzio Corte, Vincino, c'è mai stato? Mai, Lecco, siamo a Lecco. In Anche se io sono metà del nord, perché praticamente vengo tra Savona e il Piemonte, insomma. Là. Tra Savona Mio e il Piemonte. Padre di un paese a Cairo Montenotte. Bello. Vabbè. No, invece, allora, i due risultati che sono venuti fuori sono l'astensionismo, anche se attenzione, perché Dalimonte, che è un attento analista sul Sole 24, ha detto bisogna non confrontare con il 2008, laddove si andò a votare in concomitanza con le elezioni politiche, perché lì il dato viene falsato. Vincino, se si fa un confronto su quando si andò a votare solo per i comuni, si è perso l'8% di elettori, che non è tantissimo come potrebbe sembrare, no? Ma assolutamente, poi quando va a votare quasi il 50% va bene, non... Insomma, c'è tutta questa cosa qua di questo obbligo, no? Questa testa di andare a votare obbligati anche quando non c'è poco da votare, insomma, non... E c'è poco da votare, però voglio dire, ma il sindaco, io capisco, io ragionerei al contrario, non so se Salvini è d'accordo, uno magari al Parlamento c'è un po' di sfiducia, ma il sindaco è la cosa, tra virgolette, più vicina che c'è ai cittadini, no? Eleggere il proprio sindaco, o no, Salvini, eppure la gente non va a votare manco così. Senza conoscere il suo prezioso pensiero e il post che ho messo ieri su Facebook, commentato da tanta gente, porca miseria, chi non vota per il sindaco perde comunque, perché appunto il sindaco è quello che ti sistema la scuola materna, la casa di riposo, la strada, il cimitero, quindi non votare per il sindaco secondo me è una sciocchezza, nel massimo rispetto per le scelte di tutti, quindi... Quanti milanesi trovo che adesso mi dicono: ah cacchio, se 2 anni fa fossi andato a votare invece di starmene a casa perché la Moratti non mi stava simpatica. Secondo me per il sindaco non è possibile che in una città importante come Roma voti una persona su due. No, sì, è abbastanza. Perché, intanto devo leggere questo sms che arriva da Claudio da Roma. Da romano avrei votato molto volentieri Salvini sindaco. Cioè, è matto questo. Vincino, Salvini sindaco di Roma. Vincino, se te lo vedi, Vincino, Salvini sindaco di Roma. Il primo provvedimento che farebbe Salvini qual è, Vincino, secondo te? Mi hai colto alla sprovvista, guarda, questa cosa qua. Salvini a Roma, so, sì. Già avevamo De Vito che, come dire, vabbè, anche Marino in realtà è uno di Genova, là, che non si capisce bene, del Pittsburgh, no, ha fatto disastri un po' dappertutto, Ecco, subito ha già trovato il prossimo rivale su cui fare le vignette. Pure con gli scontrini, pure lui, no? Per questo forse c'ha il similitudine, però vediamo. Alemanno è un disastro, infatti perché dovete andare a votare? Tra Marini e Alemanno, per me non... Sì, certo, forse alcuni... No, ma Marini è... Tra l'altro Alemanno ha dato una spiegazione straordinaria, ha detto la colpa è del derby. Giuro, l'ho letta, la colpa è del derby. Ma perché c'era tanta gente che andava? No, perché Marino è il candidato più lontano dallo stadio, dall'idea. Io l'ho letta 500 volte, ma non ho capito, cioè, il significato. Ma non lontano fisicamente, più lontano culturalmente da chi va allo stadio, cioè. Infatti Alemanno è un arrampicatore degli specchi pazzesco. No, questo ha detto, giuro, Salvini ha capito che vorrebbe dire una dichiarazione del genere. Ma infatti anche a Brescia dobbiamo aspettare il ballottaggio perché domenica ci arrivava il Giro d'Italia. Ecco. E quindi c'è molta gente che è andata a vedersi il Giro d'Italia e che verrà a votare fra 15 giorni. Va bene, sai, tutti, e tutti i leghisti notoriamente, no Vincino? Tutti i leghisti sono andati al Giro d'Italia. Tra 15 giorni vanno tutti a votare. Secondo me ha vinto il governo. Eccolo lì. Ha vinto il governo dell'Argentese. Il governo sopravvive a questa cosa qua. Questo disastro di Grillo gli porta a lui un po' di respiro. A proposito del disastro di Grillo, sentite Giuliano Ferrara che ha questo mantra su Grillo, arrivato anche stavolta, è arrivato 3. Sempre terzo arriva, è una cosa terribile, insomma. È un po' come Tony Servillo a Cannes, Grillo. Tutti quanti lo lodano e poi dopo non... Niente, poi dopo niente, lascia la fase così in sospeso. Adesso tutti a dire Grillo ha perso. Vincino, è stato un flop dei grillini come titola per esempio la Stampa. No, è stato un flop di Grillo. Di suo, Grillo, personale, proprio suo. E perché? Ma perché non ce la fa, non ha la capacità, insomma, non è il respiro per quella cosa là. Lui ha avuto troppo successo la prima volta, per cui non sa come fare, è disperato. È disperato. Non c'è nessuno di chi è il numero 2, è Levato Casaleggio che non sa che numero è. Ma il Movimento 5 Stelle è Grillo, cioè la gente vota Beppe Grillo, diciamo la verità. Sì, però il piano lo fa Casaleggio e punta Gaia, che è una cosa terribile, non so se avete mai visto. Sì, sta cosa, Gaia, il futuro. E il numero 2 dopo chi è? Crimi, quello che fa quell'intervista che dice no, i deputati non devono occuparsi di politica. Sì. Qui non si fa politica. C'era una cosa, ma come? Fai il capogruppo al Senato e non bisogna occuparsi di politica, di strategie. Ma vabbè, è un deficiente simile, come l'hanno preso? Come un deficiente simile? No, è uno che dice, scusa. Ma per dire la politica, sai che loro rivendicano di non si fa la politica vecchio stile, no? Si fa... No, non devono occuparsi di strategie, dico no, politica tout court, proprio? Assolutamente. E che è un deficiente. Io credo al Corriere della Sera, quell'intervista era bellissima, precisa, loro sono inappuntabili. Diciamo. È vero che il Corriere Vincino legge solo il Corriere della solo Sera. Solo il Corriere, solo il Corriere del Foglio. Vabbè, sì, il Corriere del Foglio, ovviamente. Oggi mi hanno messo era un appunto, gli ho mandato uno schizzo e me l'hanno messo, guarda, è terribile. E tra poco me ce lo racconti. Prima devo andare al traffico, alla segreteria telefonica, poi entriamo con Vincino e Matteo Salvini. 24 mattino. Caro interista, ce l'avete tutti con il nostro carissimo ex senatore a vita Andreotti. Nel 45, quando gli americani sono arrivati, Andreotti c'era, Berlusconi no, la Minetti neanche, Alfano si cagava ancora sotto, non c'eri neanche tu. Per cui la storia la fa Andreotti, non la facciamo noi poveri coglioni. Buon lavoro. Voglio dire, basta la Minetti, non se ne può più di sentire quella donna volgare. Il caffè lo gradisco se me lo offre Radio 24. Buongiorno Mila. Allora, io è mezz'ora che sono davanti al frigo con due zucchine e una fetta di prosciutto e ho pensato, con una zucchina faccio un risotto e un'altra zucchina faccio un affettato col prosciuttino e si campa anche oggi e va buono. Ma lei forse immagina che Berlusconi ha questi problemi? Quando si riempie la bocca di gli italiani non arrivano alla fine del mese, ma lei pensa che le sue domestiche o qualcuno o la sua compagna sta davanti al frigo con due zucchine che non sa cosa fare? Con 500 euro al mese di pensione? Ho una pianta di cachi qui fuori al giardino. Non so se mettere una corda insaponata o mangiarmi le due zucchine. È meglio le due zucchine, va. Ciao Milan, sono Patrizio da Treviso. Ma ho capito bene o questo governo vuole dare altri 2 miliardi alle regioni del sud per ripianare i loro debiti? Oh, veramente questi qua hanno la faccia come il culo, non se ne può più, Altro che forconi, forconi sono poco ormai, Bisogna cominciare ad armarsi veramente ed andare giù e cominciare a sparare a chiunque passa via dalla strada. Senza tanti problemi, perché tanto ormai là a Roma sono tutti uguali. Ciao, ciao. Uè, questa è la ricetta, io sono anche un po' preoccupato adesso, a parte gli scherzi, siamo con Vincino Matteo Salvini, Vincino tu sei preoccupato? Ottimismo stamattina. No, devo dire, a parte questa signora, ci ho pensato... Questa delle zucchine è deliziosa. No, ma... sì, ho capito, però ho pensato più volte se mandarla in onda, signora, lo so, la vita è difficile, soprattutto con 500 euro di pensione, io posso capire perché... però Salvini... Vuol dire qualcosa, sia questa signora, perché la politica non risponde mai, si dice vi riempite sempre la bocca di proclami e poi dopo io sono qui con 500 euro di pensione, che diavolo devo fare? Guardi, ogni tanto la politica risolve, a me piace fare politica perché riesco a risolvere qualche problema, non tutti i problemi, io ho incontrato tanti genitori separati che dormivano in macchina ed erano disperati. E finalmente settimana scorsa, come Regione Lombardia, per la prima volta abbiamo stanziato 1 milione di euro per i genitori separati che dopo separazione e divorzio perdono la casa, perdono tutto. Non sistemeremo 50.000 genitori separati evidentemente con 1 milione di euro, però cominciamo con 200-300 persone. Quindi... Quelli lombardi e quelli veneti dormono sempre in macchina. In Veneto hanno già stanziato 500.000 euro, sono stati i primi. Vincino, lo vai a stuzzicare sulle regioni dove sono tutti... Posso contestare il Corriere della Sera? Sì, cioè? Certo. Vincino si arrabbia subito, perché il Corriere della Sera... Quanti ascoltatori, penso quasi tutti... ritengono che il figlio di Bossi abbia comprato uno yacht da 2 milioni e mezzo di euro col denaro pubblico? Molta gente, io l'ho letto. Perché? Perché è una bufala? Quello una bufala. In Tunisia. Quello in... hanno detto dopo 15 giorni di menata di Torrone con sto yacht di Riccardo Bossi che non era vero, non era suo. Che gliel'aveva detto la finanza. E hanno chiesto scusa dopo 15 giorni di rotture di palle con due righe alla fine. Quindi, e come Lega poi uno si dice, perché non sono andati a votare? Io ho sentito tanta gente che ho detto, ma io non vengo a votare perché il figlio di Bossi c'ha lo yacht. Colpa del Corriere. Un par de palle. Non colpa, però insomma, siccome il Corriere della Sera era andato a scovarlo in Tunisia, lo yacht di Riccardo Bossi, che vergogna effettivamente. Non è suo, però ci andava a bordo, questo sì. Vuol dire, se io anch'io prendo per andare in Sardegna il traghetto, ma non è mio il traghetto, ci salgo una volta ogni 2 anni e poi ci scendo. E dire che oggi sul Corriere Manuela Dall'Ago, che ha perso a Vicenza, non ha vinto, eccetera, ha detto ci manca Bossi, perché dovrebbero votarci? Perché la gente dovrebbe Salvini? Ma se lo domandi, se la candidato sindaco non ha vinto, si faccia una domandina se alcuni suoi colleghi hanno vinto. Eccolo lì, le coltellatine nella Lega, Vincino. Siamo alle rese. Se il candidato sindaco al mio paese perdessi, non dico è colpa di Milan, è colpa del tempo. Sicuramente, ripeto, i giornali la Lega non la amano, però insomma... No, insomma, Vincino non ha fatto come il sindaco di Agnosine, Bontempi, di grande, Agnosine. Grande. Quello di Treviso, là, il 93enne razzapiave, ma come c'è? Gentilini no. Ma uno più giovane non l'avevano là, uno sì, meno... Sì, questo devo dire, ma perché Gentilini sempre, no? Salvini. Da 40 anni per il sindaco. Ma sì.

ciao Sandro. Eccoci qua. Tra l'altro il Fatto Quotidiano in prima pagina invece mette l'editoriale del direttore Antonio Padellaro, contenti loro, cioè contenti loro in realtà in questo appunto continuo aumento di persone che non vanno a votare. Allora, Fini, la prima domanda è questa: ha vinto il governo delle larghe intese, come sembra voler pensare Enrico Letta? Ma direi proprio di no. Quando c'è un elettore su quattro che non va a votare, e a Roma addirittura uno su due, e Roma è una città dove ci sono tutti gli apparati dei partiti, per cui c'è gente che va a votare per forza perché gli dipende il posto di lavoro, non mi sembra proprio che abbia vinto il governo delle larghe intese. E anche questa soddisfazione per il dimezzamento, mi pare, di Grillo, secondo me è un auto da fè dei partiti. Io ho scritto tempo fa sul Fatto Quotidiano che Grillo in realtà era 5 Stelle, era in realtà utile involontariamente ai partiti, nel senso che canalizzava una rabbia, la istituzionalizzava, la inoquizzava, perché il movimento Grillo è un movimento rivoluzionario ma pacifico, eccetera. L'astensione è molto più pericolosa per il sistema dei partiti, perché vuol dire che è gente talmente esasperata che neanche Grillo gli va bene, e il passo successivo, è quello che, mi è stato poi rimproverato. Per la prima volta al mondo sono stato citato da Bruno Vespa dopo 40 anni di onesta carriera. Per questa cosa? Per questa cosa, tra l'altro. Come cosa? Incitatore alla violenza? Vespa è sempre ambiguo. Comunque ha detto una cosa che è falsa, nel senso che il titolo, che è, mi pare sia 1-10-100 golpe, non so, 100 colpi di Stato, me l'ha attribuito. Ora, chiunque faccia giornalista sa che il titolo non lo fa. Ma non solo, ma ha invertito il senso. Io ho detto, siccome era una intervista fatta quando Grillo parlò di Golpetto per la storia di Napolitano, eccetera, io ho detto che il colpo di Stato era venuto molto prima, anni fa, quando i partiti hanno, debordando l'articolo 49, che come sapete dice i cittadini possono organizzarsi in partiti per concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale, hanno debordato da questo articolo e hanno occupato tutte le istituzioni, il parastato, la Rai TV. Quello è il vero colpo di Stato. Comunque, secondo me è il vero colpo di Stato, che quindi non è un Vespa l'ha girato al contrario, se io fossi favorevole al colpo di Stato. Però è interessante già la prima analisi, a dire non è neanche da essere troppo da gioire troppo per il calo del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle incanala questa rabbia sociale che c'è, lo fa in un movimento pacifico. Non so, Sallusti, se vogliamo partire da qui, così partiamo dal titolo che sul giornale avete messo, perché prenderla dalla sconfitta di Grillo? Poi magari si può parlare anche del fatto che il PD è calato e il PDL ancora di più. Ma perché il fatto politico è indubbiamente questo, che PDL e PD non abbiano fatto una grande prestazione, mi sembra evidente. Poi sul risultato finale non si può trarre, è il primo turno, c'è il ballottaggio, tutto dipenderà dalle alleanze, immagino che saranno ballottaggi che andranno quasi tutti a favore della sinistra, proprio per il gioco con le alleanze, perché Grillo che non va a ballottaggio da nessuna parte. Se c'è una coerenza con quello che abbiamo visto in Parlamento in questi primi avvio di legislatura, credo che i grillini più o meno si alleeranno con la sinistra e quindi permetteranno di vincere le elezioni. Ma è lo sconfitto non solo perché ha perso ben più della metà dei voti che aveva, in alcuni casi 2/3 dei voti che aveva solo 3 mesi fa, ha perso, l'immagine che Grillo ha perso è nelle dichiarazioni, poche dichiarazioni ufficiali di ieri, che sembravano quelle dei segretari dei vecchi partiti, quando c'erano prima il maggioritario 30 partiti, passavano tutti in televisione la sera delle elezioni e tutti avevano vinto, anche quelli che erano scesi allo 0, sì, certo. che i grillini hanno sostenuto che tutto sommato sono soddisfatti e hanno quasi vinto, il che è l'immagine che sono già un partito normale, e quindi lì è la sconfitta. Lei dice sono come i segretari di partito, ma i grillini si alleeranno, in realtà loro non si alleeranno con nessuno, almeno ufficialmente, poi magari chi ha votato Beppe Grillo, il movimento di Beppe Grillo voterà chi vuole ovviamente al ballottaggio, però ufficialmente non ci sarà alcuna alleanza, ha sempre detto così, rivendichiamo di non fare alleanze, ci mancherebbe che si alleano con qualcuno o no, Sallusti, al ballottaggio. Ma sì, non credo ci siano apparentamente, anche se non escluderei che magari da qualche parte possa anche cadere, perché la strada politica del Movimento 5 Stelle è quella di fare la nuova, di sostituire Di Pietro piuttosto che altri, nel fare stampella alla sinistra. Ma l'analisi invece che dice Fini, e cioè che è quella che poi diceva anche spesso Beppe Grillo, ha detto senza di noi c'è il rischio dell'anarchia, cioè che il Movimento 5 Stelle non c'è tanto da gioire dal fatto che un movimento che è considerato un movimento al quale molti cittadini si sono rivolti per protesta, adesso neanche lì, almeno sembra dire, la gente crede più che possa incanalare questo tipo di protesta. Penso che senza abbassare le tasse c'è il rischio dell'anarchia, senza creare posti di lavoro c'è il rischio dell'anarchia. Il rischio dell'anarchia è insito in un sistema che non funziona. Allora, non credo che Grillo salvi il sistema in quanto lo farà funzionare. Può salvare il sistema nel senso che come fa da catalizzatore a uno scontento, ma insomma sarebbe anche un po' eccessivo sostenere che Grillo può catalizzare anche le frange estreme del malcontento, dove se per estreme intendiamo quelli che ieri hanno mandato una finta, per fortuna, polvere di antrace al giornale, al Corriere della Sera, Grillo che controlli quelle frange lì. No, perché? Ma lei ha il dubbio che possa essere così? No, lo spero, penso di no, quindi il suo ruolo è quello di fare il partito fuori dal bipolarismo, il partito che appunto catalizza l'opposizione al governo. Il ruolo che prima aveva Di Pietro, Beh, già questo non so se farà molto Fini, non so se farà molto piacere a coloro che votano il Movimento 5 Stelle sapere che secondo Sallusti occupano un ruolo che aveva Di Pietro, cioè dal punto di vista politico. No? Secondo me è molto riduttiva l'analisi di Sallusti. Il 5 Stelle è un movimento rivoluzionario pacifico che ricorda un po' la Lega delle origini, e che credo sia abbastanza grottesco adesso addebitargli, dopo che è entrato in Parlamento, mi pare da 2 mesi, non so cos'è, una malpolitica che dura da 30 anni, una malpolitica che è stata disastrosa dal punto di vista economico, ma ancora più sociale e etico. Questi ci sono da 30 anni, questo è il punto. Sì, ma infatti e quanto hanno perso? Perché cioè, in queste elezioni vogliamo parlare, Sallusti, PDL Lega, cioè, è stato un po' un disastro, cioè il centrodestra, almeno in questo primo turno. È questa l'accusa che fanno molti del Movimento 5 Stelle, subito a guardare un calo, o se si vuole un crollo, una perdita di voti del Movimento 5 Stelle, che secondo me era anche fisiologico dopo la sbornia elettorale avuta alle politiche. E invece non si parla del fatto che i partiti tradizionali continuano a perdere voti, cioè li vota sempre meno gente. Sì, ma è ovvio che uno tira, ma un conto è passare come ha fatto Grillo in alcune città dal 26 al 6%, in altri è passare dal 34 al 30 o al 28, cioè di avere le oscillazioni normali, anche se forti oscillazioni elettorali. Cioè PD e PDL si sono confermati alla grande il primo partito, ci sono quasi 20 punti di distacco rispetto a Grillo, cioè Grillo è ritornato dentro l'area che a mio avviso gli compete, che è appunto quella ormai è governo Larghentese versus Grillo, cioè o Grillo contro tutti, allora ha ragione ma questo è governo contro opposizione, mi sembra assolutamente uno schema assolutamente democratico, peraltro funzionale. Quindi lei è d'accordo se dice che la gente abbia premiato le larghe intese, secondo me ha punito anche le larghe intese. Quindi la domanda era proprio questa, non è una vittoria delle larghe intese, come dice. No, è una vittoria di nessuno con questi una vittoria di nessuno. Di questa astensione non credo che nessuno possa rivendicare una vittoria. Fini, su questo... Se la gente avesse premiato le larghe intese, avremmo almeno un sindaco in quasi tutte le città, perché vuol dire che uno dei due partiti, a volte il PD e a volte il PDM, avrebbe preso più del 50% dei voti. Sì, forse così non è. Forse, Letta in questa previsione, che non è ufficiale, tra l'altro, ma sono retroscena sui giornali. Questa è la sensazione che ha Fini, e forse si è spinto un po' oltre, cioè a dire, in questo momento si temeva invece una scoppola che non sarebbe stata buona per la tenuta di governo, e quindi è scampato pericolo, almeno per il momento, no Fini? No, non è scampato pericolo, è aumentato pericolo, perché, ripeto, l'astensione è molto, se ci mettiamo dal punto di vista del regime dei partiti, è molto più inquietante di un movimento come quello di Grillo. Cioè, se un italiano su due non va a votare, si pone un problema di legittimità di questo sistema, come ovvio. Ma perché? Cioè, no, non è un italiano su due. No, ma sì, a parte che sono 68% andare a votare a Roma, un italiano su due. Un italiano su due, 68%, poi non calcoliamo per quanto poco abbiano preso i grillini. È un movimento di protesta, poi ci sono le schede bianche e nulle che il Viminale non ci dà, e poi c'è un polso del paese che Sallusti dovrebbe conoscere bene, perché è un notevole giornalista con cui tra l'altro ho rapporti di simpatia reciproca, credo. E se tu vai in giro vedi che questa rabbia c'è, che questa rabbia monta, e questi non si rendono conto di ballare sull'orlo di un vulcano, per cui diventa fondamentale se a Roma c'è Marino piuttosto che quell'altro. Non è questo il punto, è una crisi del regime dei partiti, è una crisi della democrazia rappresentativa. In questo l'Italia è un paese di punta, nel senso che è sempre stato un paese laboratorio, il movimento infatti di Grillo viene osservato con grande attenzione e anche pubblicazione in Europa, perché da noi è sempre nato qualcosa, è nata la modernità con la classe dei mercanti, ed è nato il fascismo che ha dato origine a cosa tutti. Cosa teme che possa nascere adesso? Diciamo il sistema continua a essere questo, cioè che forze politiche che hanno portato il paese sull'orlo, uso una frase a me abusata, ma insomma sull'orlo del baratro, devono essere poi le stesse, quelle che hanno distrutto la casa, a ripararla, capisce che la gente non ci può credere, i cittadini non ci possono credere. Poi c'è un fatto che... No, l'altro fatto ce lo dica tra poco, perché sono in ritardo con la pubblicità, lo tenga lì il fatto. Facciamo così, ci dobbiamo fermare 4 minuti, ci raggiungerà anche tra poco anche un deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, che tra l'altro è di Roma, e quindi a capire che succede lì. Siamo con Alessandro Sallusti, Massimo Fini, e ricordo 800 24 00 24. Romani, perché non siete andati a votare? Io vorrei sapere questa cosa, uno su due è stato a casa, perché? 24 mattino. Eccoci qui alle 8:37 minuti, siamo con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, con Massimo Fini del Fatto Quotidiano. Sentirei subito Stefano dalla provincia di Roma. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Dunque, ecco, rapidamente, io sono di nascita romana e ho anche vissuto a Roma, però non ho mai preso in considerazione di viverci, perché ritengo che sia una città estremamente... Scelta di vita questa. Sì, diciamo che purtroppo la maggior parte dei romani ha un fatto culturale di indifferenza per la loro storia, quello che è. Sono molto chiusi nel loro interesse, nel loro piccolo, basta guardare in che stato è la città. Stefano, però non ci faccia il suo j'accuse nei confronti dei romani, ma perché? A votare devono andare i romani, no? Però è la prima volta che uno su due non va a votare, no? Sì, però il trend è quello in confronto a città tipo Milano e via. Quindi vede una disaffezione un po' dei romani verso quello che succede, non gliene frega niente. Ritengo che sia proprio così. Vabbè. Stefano, grazie per questa analisi anche sociologica fatta dalla provincia di Roma sui romani. Voglio salutare l'onorevole Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, se va bene mi può chiamare solo Alessandro, mi può pure dare del tu. Va bene, Alessandro, mi chiamo Alessandro anch'io, quindi andiamo molto a posto. Senti, allora, titoli dei giornali: flop, disastro, caporetto, questi sono i titoli che vengono associati al Movimento 5 Stelle. Davvero così? È stato un disastro? Beh, davvero così no, nel senso che io non sono per niente il tipo, sai, politici di professione che devono sempre giustificare ogni cosa e devono dire quando perdono abbiamo non vinto. Noi non siamo proprio questi tipi, per cui io stamattina mi sono svegliato un po' arrabbiato, ieri ero deluso, assolutamente sì. Però bisogna pure avere un po' di lucidità e onestà intellettuale di analisi, cioè ci sono quelli che dicono siamo passati da 0 al 7, all'8, al 20 in alcuni posti, per cui abbiamo stravinto. E altri che dicono crollo totale. Non si possono del tutto paragonare le amministrative alle nazionali. Considerate che ieri i sondaggi della 7 di Mentana, che sono sempre sondaggi per l'amor di Dio, però sono abbastanza veritieri, ci davano sul nazionale al 24,5. Per cui sono cose differenti. Cioè certamente. E cosa non è andata bene allora? Perché a Roma, per esempio, il vostro candidato ha preso il 12,4%? Certo. Pensavate ma di più? E tra l'altro, beh, io personalmente pensavo di più, sì, e in altri posti poi abbiamo preso ancora di meno, ma io credo che c'è certamente da migliorare su tanti aspetti e comunque anche il piano nazionale un po' influisce, considera che comunque siamo entrati tutti giovani, tutti molto preparati e determinati, ma da poco tempo in Parlamento, per cui i primi mesi erano per forza fisiologicamente anche più complessi. Credo che dobbiamo migliorare, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo migliorare anche dal punto di vista comunicativo, perché certamente tutto il lavoro, la mole di lavoro incredibile che facciamo in Parlamento non è passato, non è passata per certi versi perché alcuni media controllati dal potere non l'hanno voluta far passare, però noi dobbiamo riuscire in tutti i modi a trovare anche delle strategie alternative, innovative, fantasiose per farle passare. Fammi capire quali sono i media, perché questa è una cosa che avete molto sentite molti, i media controllati dal potere cosa sarebbero? Beh, cioè, basta leggere un po'. Per esempio qua c'è Sallusti, so che con Sallusti forse il direttore del giornale, immagino che sia un media controllato dal potere. Non ho niente da dire a lui. Vabbè. E senta, basta leggere obiettivamente chi partecipa nei consigli di amministrazione dei giornali, che spesso sono persone estremamente vicine, sono le stesse o parenti delle persone che controllano i partiti. Quindi nei giornali ci sarebbero persone che non hanno intenzione però io non ho... Se lei mi ha ascoltato bene, anzi se tu mi hai ascoltato bene, io non ho detto che la responsabilità sia esclusivamente No, questo è certo, questo è certo. Però no, la responsabilità è di non riuscire a comunicare quello che fate in Parlamento anche perché ci sono... Beh, questo certamente, insomma, non lo dico io che purtroppo la libertà di informazione in Italia non c'è, lo dicono gli organismi internazionali, questo è vero. Io faccio il reporter, per cui penso che se i giornalisti siano molto pressanti un paese migliora, sì. Io ci credo tantissimo, cioè se la stampa fa questo lavoro in maniera anche morbosa rispetto ai propri dipendenti nelle istituzioni, io sono convinto che il paese migliora e i parlamentari, i consiglieri comunali, sì, regionali facciano meno errori, però questo stesso atteggiamento se lo dovevano avere con tutti, anche sì. Questo significa una domanda è questa che onestà intellettuale. Prego. Una domanda che si pongono oggi sui giornali è la questione della democrazia interna, che spesso è un tema che viene ribadito. C'è qualcosa da migliorare anche all'interno del Movimento 5 Stelle da questo punto di vista? Per esempio a me ha molto colpito Vito Crimi, che era nostro ospite 3 giorni fa e che ieri ha ribadito avrebbe mandato un sms a dire vi chiediamo di non commentare i risultati del voto. È una cosa giusta, normale in un movimento in cui ognuno è libero di poter dire quello che pensa, immagino. Guarda, se io non sentissi, ma te lo dico proprio con il cuore in mano, una totale libertà di azione, io starei sulle Ande a scrivere qualcosa che stavo facendo, non mi sarei candidato nel Movimento 5 Stelle, per cui il problema della democrazia interna è una totale balla e sinceramente non ho ricevuto nessun tipo di messaggio da Vito che non ha nessuna, tra l'altro, come dire, potere, tra virgolette, di inviarlo. Al Senato, lui l'avrà mandato ai senatori. È un portavoce, non posso commentare, non so nulla di questo, cioè lo apprendo da te, l'esistenza di questo SMS, lo scrive non credo che sia vero. Lo scrive il Corriere, non lo so, io anche io riporto, però credo che se il Corriere scrive una cosa, cioè ci voglio abbastanza credere. Alle volte diciamo che facciamo una passeggiata per Roma con gli attivisti e diventa il Movimento 5 Stelle marcia su Roma, per cui non sempre ciò che è scritto sui giornali è vero e tu lo sai benissimo, non lo so adesso, cioè, devo dire, cioè, i giornalisti scrivono una serie di cazzate, ecco, no, per dire questo, che i giornalisti scrivono sempre cazzate, dire che tutto quello che sui giornali è vero, no, tutto quello che sui giornali è vero, no, come qualsiasi cosa, non c'è la verità perché assoluta, però. Esatto, però il concetto, magari in questo caso non sarà la verità, sì, però il concetto, comunque non lo so, lo apprendo, però da certo, te, però il concetto è che quello che viene scritto sui giornali viene subito messo in dubbio, ecco, come riflesso incondizionato, spesso viene messo subito in dubbio quello che viene scritto su un giornale, ecco. Diciamo che tanti giornalisti e giornali ci hanno un po' abituato male ultimamente, per cui purtroppo a me dispiace tanto questo, no? Dispiace tanto che spesso tu ascolti una cosa alla TV o la leggi in un giornale e ti scatta il dubbio, perché non dovrebbe essere così, però se scatta il dubbio evidentemente degli errori da parte dei media c'è, ed è un sistema certamente da rifondare come quello politico. A me da giovane ragazzo, io poi ci credo tanto che riusciamo a cambiarlo questo mondo, anche per questo c'è delusione, perché io ci credo tanto e sono convinto che alla prossima elezione il Movimento 5 Stelle aumenterà considerevolmente i voti, e parlo di elezioni nazionali, però certamente io mi alzo anche deluso dal fatto che pochissima gente sia andata a votare, perché la gente crede, un po' come diceva Mark Twain, che se votare contasse non te lo farebbero fare, e questo è un po' il tema della democrazia vorrei sapere, in crisi. Vorrei sapere anche due o tre cose tra un attimo, Paolo. Dopo il traffico voglio sentire anche Massimo Fini, Alessandro Sallusti, e poi torno da Alessandro Di Battista per capire anche la questione della, del rischio anarchia, che anche Massimo Fini dice, un po' come diceva Beppe Grillo, noi siamo un po' l'argine alla possibilità di rischio di anarchia, ma tra un secondo dopo il traffico. Allora, Sallusti, direttore del giornale, e qui non so se ci sono le liste, dicono che non ci siano le liste di giornalisti, però Sallusti, non credo che lei stia tra la lista dei buoni, se ci fosse una lista per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle. Non so se Io sono nella, immagino di essere nella lista dei cattivi. No, ma non esiste, cioè non esistono liste, ma se ci fosse un'ipotetica lista. Se ci fosse, lì, ma per un giornalista essere in una lista dei cattivi rispetto alla politica è un punto di merito. Io credo che proprio i grillini hanno sbagliato completamente tutto nell'approccio col giornalismo e con i giornalisti. È vero che il potere, sono il primo a sostenerlo, in Italia controlla i giornali, ne determina gli indirizzi e tutto quanto, ma non pensate che i giornalisti italiani sono lì ossessionati da cosa fate voi grillini da mattina a sera. È il vostro atteggiamento un po' di mero, un po' goffo, un po' di chiusa che trasmette soltanto via internet la voce del grande fratello che parla, cioè tutte queste sceneggiate qui, anche per la verità, nuove della politica, hanno tirato l'attenzione dei media e in alcuni casi c'è stato più un prendere in giro che non Sì, però il dato di fatto, Sallusti, effettivamente, se uno oggi prende un giornale, sembra che l'unico dato politico, almeno io ho il Corriere Repubblica, proprio il tonfo di Beppe Grillo. Io questo, quando le ultime amministrative, i titoli erano il tonfo del scomparso del PDL, il tonfo del PDL, perché era il dato politico. Il dato politico non è tanto che il PD e il PDL sono andati più o meno male, il PDL più del PD, ma qui si entra veramente nelle dinamiche delle. E qui il problema è che Grillo non ha. E io dico, sono abbastanza d'accordo con l'onorevole che ho appena sentito, che le elezioni amministrative per Grillo sono un po' come per il PDL, perché chi ha forte leadership, quando non è il leader in campo, e Grillo non lo è neanche di politiche, ma è come se lo fosse. Nell'amministrativa è più difficile. La cosa cambia dal giorno alla notte, ma sta di fatto che lui aveva intenzione e aveva, promesso di conquistare anche le città. Non è avvenuto, ma non solo non è avvenuto, proprio non può più avvenire, credo. Addirittura, è un passo in ritorno. Dal 6% di fit tutte, poi abbiamo visto due papi, quindi si può immaginare tutto. Ma no, tornare dal 6 al 51... Paragone, abbiamo visto due papi, quindi a quel punto si può vedere tutto, non è male. Massimo Fini, poi voglio tornare un attimo alla Di Battista. Fini, ha ragione Alessandro Di Battista... a dirci che di regime c'è anche parte della stampa, di quel regime di cui lei parlava prima. Direi che c'è completamente, cioè l'astio di Grillo e dei grillini nei confronti del sistema mediatico deriva dal fatto che lì considera il sistema mediatico totalmente complice del regime dei partiti, naturalmente con eccezioni, ci sono bravissimi giornalisti, ma nel complesso il sistema dei media, dei giornali è stato complice di questo potere, e se loro contestano questo potere è chiaro che devono contestare anche la stampa, che è stata strettamente legata a questo potere. Non mi sembra coerente il ragionamento di Battista. Più che di Battista è il ragionamento generale che fa il Movimento 5 sì. Stelle. Voglio anche dire un'altra cosa, la democrazia interna. I partiti sono delle associazioni private che possono darsi qualsiasi tipo di statuto o non statuto, autoritario, elitario, eccetera, eccetera. Non c'è nulla che li obblighi, sono come una bocciofila, non sono niente di più. Sono come un club di bridge. Sì, non c'è democrazia neanche da loro, cioè nessun partito ha democrazia, questo vuol dire. Non lo so, è un problema che non ci riguarda, a me non riguarda che se il PD è un partito all'interno democratico, non me ne frega niente. Ma come no? Perché? Perché non me ne frega niente, perché ripeto, è un'associazione privata, è come se... chi sono? Beh, insomma, se si eleggono, non so, in maniera democratica i loro rappresentanti oppure sono fatti loro. Voglio anche dire che un movimento, ripeto, rivoluzionario come quello 5 Stelle all'inizio è per forza a tendenza leninista, lo è stato quello di Bossi, e in certo modo lo è stato anche quello di Berlusconi, certo. Quindi è inutile scandalizzarsi perché questo partito non è democratico. Ma è quello che spesso io dico quando io ironicamente Alessandro Di Battista, io su Twitter, ma mi crede davvero, credimi, è davvero un'ironia, io lo chiamo Kim Jong Grill perché ricorda un po', perché ho un movimento così variegato lo controlli un po' come dire col nervo, altrimenti rischia di sfuggire, perché ognuno va un po' dalle sue parti. Però Di Battista, il concetto è questo, cioè è vero che non si possono paragonare, ma dal 27 5% delle politiche su Roma siete scesi al 12,3%, cioè perché non si possono totalmente paragonare questi due dati, se uno sono politiche e amministrative, cioè è un crollo totale se uno vede queste due cifre. No, io non ho detto che, beh, innanzitutto l'ironia, non devi scusarti per l'ironia. No, ma per dire, nel senso che l'ironia, uno dice lo paragono a un dittatore, ma Kim Jong-il, ma scrivi quel che vuoi, giustamente la grazie, rete grazie. È libera. Ti dicevo, da un lato io ho detto che non si può del tutto paragonare, però certamente alcune influenze il Parlamento, quindi noi che in questo momento siamo anche più visibili sotto i riflettori, ce l'abbiamo, per questo dobbiamo un po' insistere. Io vi dico che il Paese sta male, e ve lo dico da persona giovane, e sta male soprattutto per noi giovani, perché poi tante persone che ancora galleggiano sulla crisi, come dire, loro hanno più difficoltà a cambiare. Per noi giovani abbiamo due strade. Una è combattere in maniera democratica, per l'amor di Dio, mettersi in trincea e portare avanti una rivoluzione che è di processo più che di prodotto. Il Movimento 5 Stelle questo è. Stiamo provando in maniera molto faticosa a costruire la democrazia diretta. Qualcuno non ci crede, qualcuno dice che falliremo. Vedremo, noi ci stiamo provando intanto. Sì. L'altra soluzione per un giovane è espatriare, ma di questo si tratta. Ve lo dico io che fino a poco tempo fa stavo vivendo e lavorando fuori perché c'erano poche possibilità in Italia. E invece l'alternativa, per concludere, l'alternativa è, cioè quando aspetta, però fammi finire perché così mi ricollego alla domanda perché sembra che non ho risposto. Ti dicevo, per cui i primi mesi a lavorare in Parlamento per tante persone molto preparate, sia dal punto di vista, come dire, etico, ma anche accademico, non è facile, sono i primi mesi che sono proprio i mesi più difficili. Per quello io credo e vedo adesso il bicchiere mezzo pieno, perché comunque siamo riusciti in tantissimi consigli comunali a mettere tante persone di noi, tanti cittadini che essenzialmente sono onesti, e raddoppiare il numero di cittadini. Raccoglierete i frutti. Per me questo conta. Io credo di sì, io credo che ci vuole un po' di tempo, ma alla fine raccoglieremo i frutti, e come sempre dico, io sono convinto che tra qualche anno, forse sarò giovane, forse sarò utopico, ma idealista, è giusto credere in qualcosa. Noi tra qualche anno vedremo la democrazia rappresentativa in Italia come oggi guardiamo la monarchia. Io devo, va bene, devo chiudere, ho 20 secondi, ma 20, al ballottaggio votate per chi? Nessuna alleanza, questa è la linea. Io vado, noi non siamo un partito, per cui non quattro segretari di partito non decidono quello che fa. Io vado a votare, non te lo dico a te, ma vado a votare. Ah, vabbè, grazie. Vabbè, però vai a votare. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani alle 6.30, dobbiamo chiudere. A domani. 24 mattino.